E eccoci qui con un nuovo episodio di Alla Conquista del Gioco, il podcast italiano sui giochi da tavola, condotto dai dimostratori di Area Games, Claudio e Pietro. Buonasera. Lui è Claudio, io sono Pietro. Questo è il primo episodio che registriamo nell'anno nuovo, perché sebbene avete ascoltato l'ultimo episodio nell'anno nuovo, fu registrato la settimana prima, quindi oggi noi siamo nell'anno nuovo. E siamo pronti a parlare anche oggi di giochi da tavola da farvi scoprire. Allora, vediamo un po'. Siccome Claudio ha in serbo per voi qualcosa di lungo e complicato, direi che partirei io con qualcosa di semplice e veloce, in modo da poi potermi fare da parte per lasciare campo libero a Claudio, giusto? Sì, dopo puoi anche metterti a dormire, non ti preoccupare. Ah sì, io dopo starò in un angolino ad ascoltare Zitto e Buono, probabilmente. Anche se in realtà potrei intervenire, però, perché so, conosco bene, so di chi vuoi parlare. Va bene, ma di questo parleremo dopo, perché ora, come dicevo prima, introdurrò io un gioco breve. Un gioco breve, un gioco da due giocatori, uno scacchistico praticamente, e il gioco si chiama Haru Ichiban, di Bruno Catala, ormai onnipresente in ogni nostro episodio, il buon Bruno. Questo Haru Ichiban è del 2014, edito dalla Black Rocker Games, e appunto è un gioco scacchistico con ambientazione, diciamo, due saggi che osservano un laghetto con le ninfee mosse dal vento. Perché appunto Haru Ichiban vuol dire il vento della primavera. Praticamente i giocatori interpretano questi due saggi, che altro non sono che due giardinieri, che devono sfruttare il vento per comporre con i fiori delle composizioni armoniose. Allora, la plancia del gioco raffigura questo stagno con un giocatore da un lato e un giocatore dall'altro. Nello stagno verranno poi posizionate delle, come si chiamano? Ninfee, esatto, sì. La ninfea è la foglia o il fiore? Questa è una bella domanda, vero Claudio? Perché in inglese si chiama water lilies la foglia, in italiano, vabbè, ho un po', non lo so, comunque. Il water lilies, appunto, la foglia, quella famosa che galleggia, su cui poi cascano i fiori, verranno posizionate a inizio partita come descritto nel regolamento del gioco. In più ci sarà una foglia che da entrambi i lati è più scura, mentre le altre sono scure da un lato e chiare dall'altro, e ci saranno due foglie che invece hanno raffigurato sopra le uova di rana, una alle uova della rana gialla e una alle uova della rana rossa, che sono i due colori dei due giocatori. Quindi inizio partita, i giocatori avranno questo schema di foglie che riempiono parte dei quadrati d'acqua dello stagno, e in cui nei due raffiguranti le uova di rana ci saranno anche le due rane corrispondenti sopra. A questo punto i giocatori ricevono i loro otto fiori del loro colore. I fiori da un lato sono semplicemente fiori, mentre dall'altro hanno un numero che va, appunto, va da 1 a 8. I giocatori iniziano con 3 fiori disponibili, o guardano quali numeri sono raffigurati sotto e possono iniziare la partita. Un turno di gioco funziona in questo modo: praticamente i giocatori scelgono uno dei loro 3 fiori e lo giocano per tentare di vincere o perdere questa fase di confronto numerico, perché chi dei due giocatori giocherà il fiore col numero più basso sarà l'assistente giardiniere, mentre chi giocherà il numero più alto sarà il maestro giardiniere. Essere assistente non è una cosa negativa, perché darà possibilità di fare certe azioni che il maestro non può fare, e così via per il maestro. Quindi giocare volontariamente il numero più basso fa gioco in questo gioco, non è una costrizione, nemmeno è un malus. Ok, fatto questo, una volta che i due titoli sono stati assegnati, parte il turno del gioco come anche raffigurato sulla pianta, scusate, sulla plancia. Prima di tutto l'assistente giardiniere è obbligato a giocare il suo fiore, quello con il numero che ha puntato, sulla foglia più scura. All'inizio partita ce n'è una prestabilita, dopodiché verrà selezionata di turno in turno. Quindi l'assistente giardiniere obbligatoriamente piazza il suo fiore sulla foglia scura. Dopodiché il maestro giardiniere piazza il suo fiore invece sulla foglia che vuole. Quindi la differenza principale nel piazzamento è che l'assistente ha un piazzamento obbligatorio mentre il maestro è libero. Dopodiché l'assistente giardiniere invece ha una mossa molto più forte perché può muovere un blocco di foglie. L'assistente può muovere da una a più foglie contigue, come se fossero una colonna, in maniera ortogonale, ovviamente rispettando gli spazi vuoti e non potendo far cadere le foglie fuori dallo stagno. Dopo questo spostamento tocca di nuovo al maestro, che invece girerà una foglia vuota, senza fiori, dal lato chiaro al lato scuro, e quindi sceglierà quale sarà la foglia in cui piazzerà l'allievo del prossimo turno. Quindi, ad esempio, il maestro può scegliere di girare una tal foglia perché il prossimo turno è sicuro di essere l'allievo e quindi di avere quel piazzamento. Questo è un turno di gioco, semplicemente, tutto qui. E nonostante sembra ci siano tante cose, in realtà c'è una tabella sulla plancia davanti a entrambi i giocatori che è molto esaustiva. Le altre cose particolari. Allora, innanzitutto qual è lo scopo del gioco? Lo scopo del gioco è fare composizioni con i propri fiori per fare punti. La composizione più semplice è un quadrato di 4 fiori che vale un solo punto. Dopodiché ci sono le due combinazioni da 3 punti, che sono fare o 4 fiori in diagonale o 4 fiori in linea retta. E poi c'è la più complicata di tutte, che fa vincere la partita, addirittura se viene fatta, perché fa fare ben 5 punti, è fare 5 fiori in diagonale del proprio tipo. Questo perché la partita si vince quando si raggiungono i 5 punti, e quindi soltanto con questa composizione si chiude la partita di botto. Mentre negli altri casi, una volta che un giocatore ha fatto i suoi punti, ha fatto i punti a fine turno, semplicemente tutti i fiori vengono recuperati dallo stagno. Tutte le foglie vengono girate sul lato chiaro, tranne quella che è da tutti e due lati scura, e le rane tornano sulle uova di rana. Perché adesso parliamo appunto di cosa servono le rane. Allora, le rane servono perché cosa succede se i due giocatori puntano lo stesso numero? Se i due giocatori, ad esempio, puntano entrambi il 6 nello stesso turno, come si decide chi è il maestro e chi è l'allievo? Non si decide, semplicemente i due giocatori piazzano il fiore sulla casella della rana e la rana si sposta in un fiore adiacente, in una foglia adiacente vuota. Quindi la rana serve appunto per questa situazione di spareggio, in cui il fiore viene piazzato comunque, ma non si fanno le azioni speciali dell'essere maestro o essere allievo. Non mi sembra ci sia rimasto nient'altro da dire. Sì, ok, a posto. E questo era Rucciban. Allora, il gioco è molto interessante perché, ovviamente, essendo Bruno Catala e quindi un ideatore di giochi che non copia dagli altri come fanno in molti, ma cerca di innovare, la fase scacchistica è stata resa in modo molto interessante perché, essendo i due ruoli maestro e allievo asimmetrici, il voler essere uno piuttosto che l'altro è molto interessante perché un giocatore non potrà giocare tutti i turni sperando di fare maestro e vincere, perché non potrà avere accesso a certe azioni fondamentali dell'allievo, che sono appunto spostare le file. L'allievo spostando una fila di foglie può veramente scombinare i piani del maestro, che se non fa anche lui l'allievo per un turno, difficilmente riuscirà a rimettersi in sesto. E quindi le meccaniche portate da Catan in questo gioco sono veramente interessanti. È uno scacchistico molto bello. L'unica cosa che un po' mi lascia perplesso è il fatto di dover fare più turni per vincere, cioè questa cosa delle composizioni fanno un punteggio e per vincere la partita bisogna fare più round. Avrei preferito una cosa proprio a vittoria secca, che c'è con la composizione più difficile, che per carità si fa, però è anche vero che le composizioni facili si fanno veramente facilmente, quindi la partita durerebbe molto poco. Il gioco è molto bello, i componenti anche sono molto ben curati, e tra l'altro è esistita anche una versione deluxe fatta in 3D, in cui il gioco diventava la scatola. Praticamente il gioco era componibile, cioè la plancia era divisa in due ed era componibile e creava la cassetta che era anche la scatola del gioco. Questa edizione deluxe non è introvabile ormai, quindi neanche a parlarne. Mentre il gioco base ha un costo sui 25-26 euro più o meno. Ed è edizione francese-inglese, quindi principalmente francese, ma c'è anche l'inglese nel regolamento della scatola. Quindi l'unica edizione esistente di questo gioco in Europa, quella della BlackRock Games, è adatta anche a chi conosce la lingua inglese, mentre per l'Italia ancora non si sa niente, essendo un gioco del 2014, può darsi che forse non lo vedremo mai, chi lo sa. Va bene, abbiamo parlato di un gioco veloce di Mr. Bruno Catala, adesso parliamo di un mattone di Mr. Bruno Catala. È vero, è sempre lui, non ci avevo pensato. Tanto alla fine ci caschiamo Sì, è sempre, sempre però Catala. sembra che abbia fatto più giochi di Chris ormai. Sì, effettivamente è un'altra cosa. Mentre cercavo la versione deluxe del gioco, sono finito sul sito ufficiale di Bruno Catala, dove ha creato una pagina per ognuno dei suoi giochi, e da lì veramente si può vedere quanti ne ha fatti. Adesso non ce me li metto a contarli, però ne sto vedendo a mie spese che comunque ne ha fatti tanti anche lui, perché bene o male parte dello scaffale c'è sempre lui in mezzo. E è iniziato tardi, tra l'altro, è diventato un creatore di giochi nel 2003-2004. È adesso che li sta facendo tanti, se ci guardi negli ultimi 3-4 anni ne ha fatti veramente tanti. Sì, perché ormai è un nome consolidato e tutti gli editori francesi fanno fare qualcosa, cioè, non essendoci l'esclusiva nel mondo dei giochi da tavola, lui può lavorare con quanti editori vuole, quindi. Però quello di cui parlerò adesso è un po' più vecchio, è del 2009 il gioco base. Nonostante un'espansione sia uscita da 2 mesi. Allora, c'è un'espansione che deve uscire a breve, che è uscita a breve, che è Monuments, e poi avevo avuto altre due espansioni, una nel 2011 e una nel 2014. Parliamo di Cyclades, le Cicladi, le isolette greche. Allora, è un gioco da 2 a 5 giocatori, in media da 1 ora e mezza a 2 ore. Una scatola molto espansiva. Il gioco base contiene più di 90 miniature e una bella plancia, bella grande, un buon regolamento e tanta tanta componentistica. Per quanto riguarda le espansioni, la prima espansione Hades contiene una ventina di miniature e qualche tessera aggiuntiva. L'espansione Titans aggiunge una plancia fondamentale, un giocatore aggiuntivo e quindi anche altre miniature. E l'ultima espansione di cui sono abbastanza all'oscuro, so che comprende qualche nuova miniatura, ma bene o male deve essere l'espansione più piccola del gioco. Lo si vede anche dalla scatola. Comunque, partiamo dal gioco base, che probabilmente è la nota storta del complesso. Perché senza espansione è proprio non è niente di speciale come gioco, anzi, sembrerebbe essere un gioco abbastanza noioso. Sì, anche bruttino, diciamo. Sì. Che è il solito discorso che abbiamo fatto per giochi del calibro di Ghost Stories, che senza espansione è un gioco a metà. Sono problemi che possono avere molti altri giochi da tavola, come Dixit o Race for the Galaxy, ma in quel caso per carenza di carte che dopo si impara a memoria il gioco. Allora, in Cyclades, come abbiamo detto, il gioco prende il nome dalle Cicladi, che sono le isolette greche. Ogni giocatore avrà il comando di una fazione, di una popolazione greca, che ogni turno, loderà una divinità diversa. A seconda della divinità che verrà lodata, questo popolo avrà dei benefici diversi ogni turno. L'obiettivo del gioco è essere la prima fazione ad aver costruito, due grandi metropoli nell'antica Grecia. E quindi il gioco, si divide per varie meccaniche, perché è un gioco area control di battaglia. Di aste, e volendo anche di lancio di dadi, vabbè, quella è proprio la cosa minore. E anche ci sono anche delle carte che si possono attivare e comprare durante la partita. Il gioco base comprende una plancia fatta principalmente di mare con le Cicladi, quindi con le varie piccole isolette dove ci saranno i territori dei vari giocatori che avranno un setup predisposto dal libretto. Il gioco è da 2 a 5 giocatori, quindi comprende 5 fazioni di colore differente. Ognuna di queste ha 8 miniature fante, 8 miniature nave e due colonne che servono come indicatori nella fase dell'asta principalmente. L'obiettivo quindi del gioco è accumulare certi tipi di edifici differenti per poi trasformarli in una metropoli. Gli edifici del gioco sono quattro tipologie: sono la caserma che incrementa il bonus nelle battaglie, militari, il porto che incrementa il bonus nelle battaglie via mare, l'università che non dà alcun potere e il tempio che ci permette di avere degli sconti nel comprare le carte. Le carte che noi potremmo comprare durante la partita rappresentano principalmente mostri mitologici, che possono essere evocati sulla plancia se a volte comprendono la miniatura o a volte fanno degli effetti monouso direttamente. Quindi, oltre a evocare la divinità, noi richiederemo l'aiuto anche di varie creature, come si può vedere nella copertina del gioco, dove vediamo il ciclope e il kraken. Qual è il difetto del gioco base solitario? Come già detto, è un'enorme plancia con tante piccole isolette, dove ogni giocatore è isolato nella sua isola. Nella fase d'asta di inizio turno, noi cerchiamo di ottenere una divinità. Ogni divinità darà un potere differente. Per esempio, se otteniamo Ares, possiamo comprare nuove unità militari sulla plancia, e questo è l'unico modo che noi abbiamo per tutta la partita di spostare queste unità da una zona all'altra. La stessa cosa vale per Poseidone, ma lui invece ci permetterà di acquistare più navi e di muoverle sulla plancia, che è fondamentale in questa versione del gioco perché è tutto mare. E per spostarsi da un'isola all'altra bisogna creare un ponte di navi. Mettiamo delle navi una in fila all'altra e dopodiché le unità da terra con un movimento di Ares potranno spostarsi oltre queste navi alla prossima isola. Questo è l'unico modo per invadere gli altri giocatori ed è questo che rende veramente lento e noioso il gioco base. Perché a Zeus e Atena, Atena ci permette di costruire le metropoli in un modo totalmente differente, accumulando filosofi, e Zeus invece ci dà solo degli sconti principalmente per le prossime aste. Quindi è un gioco veramente noioso, il gioco base, perché ci vogliono. Ah, ho bisogno di fare Ares adesso per farmi 3 unità militari, poi ho bisogno di fare Poseidone per 3 turni di fila per farmi tutto il ponte di navi, e poi ho bisogno di prendere ancora Ares. A meno che non voglio fare la stasi di Atena, ma non è detto che io riesco ad ottenerla con l'asta ogni turno. Oltre a questa divinità, se non si riesce a vincere nessuna di queste, perché ognuna di queste viene puntati troppi, su ognuna di queste viene puntati troppi soldi, si ricade su Apollo, che è l'unità contentino che ti dà dei soldi a fine turno e ti aumenta l'incremento ogni turno delle isole. Come già detto, quindi il gioco base si basa su pochissime strategie che possono essere o prendere sempre Atena, o o prendere tante volte Zeus per avere la vittoria più velocemente nelle prossime fasi d'aste, oppure farsi il ponte navale e metterci veramente tanto tempo. Quindi il difetto del gioco base è dato dalla plancia principalmente. Si passa poi alla prima espansione che riprende la divinità Ade, Cicade Hades. Purtroppo questa non aggiunge una plancia nuova, quindi il difetto della plancia rimane lo stesso, però aggiunge delle nuove cose come le divinità minori, che sono dei poteri aggiuntivi che vince il giocatore che ha vinto l'ultima divinità dell'asta. Poi ci sono gli eroi, che sono unità differenti che si possono comprare al posto dei mostri se escono da quel mazzo, e sono miniature che possono entrare in gioco e darci dei potenziamenti. E poi vengono aggiunti anche alcuni piccoli mostri aggiuntivi, più Hades come divinità aggiuntiva. Hades avanzerà alla fine di ogni turno su una sua stradina. Tirando dei dadi lo si vedrà avanzare. Quando arriverà al numero 9, entrerà in gioco per il prossimo turno. Prendendo il posto di un'altra divinità a caso, noi potremo comprare Hades e utilizzare i suoi poteri. Hades principalmente è l'unione di Poseidone e Ares, che quindi ci permetterà di comprare o navi o unità militari e muoverle. Ma noi potremo muoverle solo se avremo un'unità non morta all'interno di questa truppa. Le unità non morte sono quelle comprate da Hades, che tornano in vita dai morti, ma che dureranno solo per un turno. Quindi, a fine del turno di gioco, tutte queste unità che noi abbiamo comprato non morte, diventeranno cenere, e quindi se ne andranno dalla plancia. E infine abbiamo l'espansione Titans, che è quella fondamentale per giocare veramente a Cicades come un bel gioco. Che io quindi consiglio, se si vuole veramente giocare a questo gioco, o comunque comprarlo, consiglio di comprare ovviamente il gioco base perché è indispensabile, più l'espansione Titans. Adesso in aggiunta, se proprio si vuole aggiungere un tocco in più. Però cioè, la cosa fondamentale è avere Titans, perché oltre ad aggiungere il sesto giocatore e la dinamica squadre, cioè oltre alla partita tutti contro tutti, si può giocare anche a partita squadra. Adesso si gioca a numero pari di giocatori. Aggiunge la plancia fondamentale per giocare decentemente il gioco. E Per quindi vedere, cioè, giocarlo bene è divertente. avere più terra e meno acqua, Mentre insomma. adesso. Esatto, mentre adesso non, cioè, adesso non abbiamo più tutte queste isolette, ci vogliono 3 ore per incontrarsi. Abbiamo solo due grandi isole, dove bisognerà cercare di gestirsi gli edifici, e soprattutto si faranno un sacco di battaglie, perché è molto facile incontrarsi. E in questa espansione viene aggiunta un'altra meccanica che ci permette di muoversi senza prendere Ares. Allora, Titans, come già detto, aggiunge un giocatore, quindi molte miniature in più, e aggiunge i titani per ogni giocatore, che sono miniature extra, che sono principalmente dei giganti, che possono unirsi alle nostre truppe militari. E in più aggiunge 5 artefatti sacri, che sono una condizione di vittoria aggiuntiva per la partita. Inoltre si gioca a squadre, e quindi ci saranno fazioni di due giocatori che si scontrano tra l'altre. La condizione di vittoria sarà di ottenere 3 metropoli invece che 2. E in questo caso è più facile ottenere per conquista, perché è molto più facile scontrarsi che nel gioco base, ovviamente. Oltre a questo si aggiunge Cronos come altra divinità aggiuntiva. E quindi nella fase d'asta ci sarà anche lui che potrà essere selezionato. Cronos ha due poteri differenti. Se è il primo a uscire nell'asta, ci permetterà di ottenere un titano gratis, e in più al costo di 2 monete ne potremo comprare un altro aggiuntivo. Massimo, una stazione può ottenere 3 titani. Oltre a questo, Cronos ha un altro potere. Se non è la prima divinità, lui ci permetterà di ottenere gratuitamente un edificio che ci farebbe costruire un'altra divinità. Per esempio, Ares fa costruire la caserma. Se Ares nella tabella dell'asta è superiore a Cronos, Cronos ci rende disponibile come edificio gratuito il suo edificio o quello di un'altra divinità che è superiore a lui. Come dicevo, la meccanica aggiuntiva per muoversi è data dai titani. Se io ho un titano in una mia truppa, in campo, io posso spendere una moneta per muovere questa truppa. Due monete per fare un movimento aggiuntivo, tre monete per fare un movimento aggiuntivo e così via. Quindi non c'è più la restrizione di Ade o Ares per muoversi, perché adesso basta aver preso Cronos un turno, aver comprato un titano, e grazie a quel titano ci si può muovere in qualunque altro turno anche utilizzando altre divinità. Quindi questo cambia molto le redline del gioco. Per il resto il titano vale come una truppa qualunque che in battaglia ha un valore di forza di 1. E la battaglia del gioco, che non l'ho spiegato, si risolve molto facilmente. Ogni unità che si scontra contro un'altra unità nemica nella regione di arrivo vale un punto che si somma a un tiro di dado. Chi ha vinto lo scontro può permettere all'avversario di perdere una miniatura a sua scelta. Dopodiché il difensore può ritirarsi oppure continuare a difendere. Se ovviamente il difensore se ne va, la zona lasciata vuota diventa del vincitore. L'altra cosa aggiuntiva che dicevo, che sono gli artefatti, sono sempre miniature che vengono giocate quando vengono comprate come carte tra i mostri e gli eroi, che danno dei poteri molto potenti, e se un giocatore o una squadra durante la partita possiede tutti e 5 artefatti, ha vinto di base la partita. Per il resto, direi di non avere altro da dire. Come già detto, il gioco base richiede Titans per essere veramente un gioco bello da giocare, se no è veramente noioso. Sì, lo è. Hades, è un'aggiunta che si può volere tranquillamente. Non è fondamentale, ma ci può stare. Sì, è Bene. base. Io ho i ricordi di quando ancora non era uscito Ade, c'era soltanto il base in Italia, veramente era un gioco noioso, durava poco per carità, però se non riuscivi a comprare, non, se non creavi una meccanica di... Scusa, se non creavi una produzione di soldi funzionale non vincevi mai, perché comunque tanto gli altri, Ares e Poseidone se lo giocavano loro, tu rimanevi lì col tuo Apollo e la tua Atena, facevi niente praticamente, e poi arrivava fuori il giocatore che aveva tipo accumulato soldi tutta la partita, compra filosofi e chiude la partita. Beh, il gioco base è un gioco basato sui soldi, ma tanto basato sui soldi, troppo, mentre... In È che non c'è modo di scontrarsi direttamente, quindi devi giocare in modo, cioè diventa un gioco noioso e lento. sì, perché Non è una minaccia quel senza potere. le divinità, comprando le creature, puoi solo rompere agli altri, ma poco. Ma poi minimamente, perché fanno degli effetti abbastanza. Con Ade già aggiungono una divinità in più che ti permette di attaccare, di smuovere le acque, però Lo so, però anche lì è una divinità che entra raramente durante la partita. I titani invece sono sempre in sì, campo. esatto, entra raramente, poi magari entra sostituendo Poseidone o Ade. Sì. Poseidone o Ares, scusa. Cioè, il discorso è quello. Titans è completo, rende il gioco completo, perché dopo tu Sì. non puoi fare le cose tranquillamente perché sei sempre minacciato, sei nell'isola di altri due giocatori. Non puoi rendere scoperta la zona, non ti puoi permettere di prendere Atena a questo turno perché sennò ti conquistano, devi gestirtela meglio. Più che altro Titans rende il Mentre gioco. nell'altro non sei. Titans dà la possibilità ai giocatori di giocare come vogliono loro, mentre nel gioco base c'è un solo e unico modo di giocare. Ed è. Sembra un gioco da bambini, perché veramente ha due regole che devi seguire, cioè ha un solo modo di giocare, ecco, è quello che volevo dire. E infatti, se avete Cicades e poi Cicades Titans, vi consiglio, prima di tutto, la scatola base è più grande di quella delle due espansioni e tiene tutto, anche Hades tiene. Quindi la prima cosa da fare quando avete entrambi i giochi è spostare tutto su Cicades base, prendere la plancia del gioco base e buttarla dentro Titans e rinchiuderla per sempre in un cassetto. Perché adesso abbiamo la plancia di Titans che è veramente bellissima. Quando qua le base via. Ok. Una volta che hai tutte le espansioni, praticamente se hai un titano, l'unico modo che hai per non attacca poter attaccare tutti i turni è usare Apollo. Per il resto tu sei in tutti i turni in possibilità di attaccare. Mentre nel gioco base Ah già, era perché un'agonia. Dimenticavo, Apollo, ritmo di Sossoni, come viene descritto dal libretto, cioè viene anche preso in giro dal libretto di gioco, ha anche il difetto che se viene selezionato come divinità ci permetterà di fare molte meno cose per turno, cioè chi ha scelto Apollo non può fare un sacco di cose. Già, nemmeno usare i suoi titani. Ok. E quindi Secret, secondo me, il gioco base è un brutto gioco, è un giochino, un brutto giochino anzi, con tutte e due le espansioni diventa un signor giocone, però parliamo di una spesa di 120-130 euro. È una bella spesa, sono più o meno tipo 40-50 euro solo il base Titans Ah, lungo. guarda, te Le lo dico Hades sono 30, subito, saranno il 120. base costa 45, no, mi sa che il base costa 50 euro l'edizione italiana 40, dell'Asterion e 45 quella della Matagot, quindi quella che non ha la lingua italiana dentro. sì. No, come no, ce l'ha, io ho la versione della Matagot, mi Sì, no, sa, vabbè, tu sai. hai quella però che in Italia è stata portata dall'Asterion. Ah, sì. Ok, questa è quella della Matagot solo per la Francia e insomma quella è internazionale, diciamo. Mentre Titans costa 40 euro e Hades costa, non lo so, eccolo qua, 30, costa 35, 30. 35. Alla fine sono 120 euro, bene o male. Alla fine, tra una cosa e l'altra, sono 75, se 120, siamo lì. Tra una cosa e l'altra, sì. Senza sconti e robe varie. Poi dopo c'è anche tutto l'ambaradan di promo, se qualcuno le vuole. E in più c'è E anche la Monuments possibilità di c'è anche la possibilità di includere le creature del gioco di Kemet. che. Sì, con il kit. Come si chiama? CK2, no? CK3. CK3. CK3. Dovrebbe essere CK Sega di Kemet, suppongo io, Sì, in che teoria. praticamente in questo kit ci sono le carte per le miniature dei mostri di Kemet da usare in Sigrades e le carte delle creature dei mostri di Sigrades da usare in Kemet. Esatto, mancano le miniature che o vanno comprate a parte o bisogna avere l'altro gioco. Sì, però è possibile comprarle dal sito della Matagot in modo da non dover smontare ogni volta uno dei due giochi. Oppure se non vuole, uno vuole avere Cyclades completo al 100%, ma Kemet gli fa schifo e può comprare le miniature di Kemet singolarmente sul sito della Quello Matagot. è più il mio esempio. Cioè, Kemet non è che mi fa schifo, ma non è un gioco che comprerei. Quindi, in prossimo adesso lo vorrei al 100%, quindi probabilmente comprerò le miniature di Kemet sfuse. Ok, Monuments, stavo guardando se c'era qualche dato in più, tipo il prezzo, ma non trovo niente, però vedo che i Credo che sia componenti. sui 20-25 per quello che Sì, contiene. esatto, è quello che stavo per dire io, ha talmente poca roba dentro che secondo me sarà come coso, come Abyss Kraken, Kraken, come Kraken costerà poco. Però Cracker. aggiunge una cosa molto carina. A me lo sembra aggiunto. Vedo che ci sono degli edifici di colore diverso modulari. Cioè le metropoli, tipo le metropoli, però modulari di plastica, come Age of Conan, dove Ah, puoi sì. montare gli edifici. Ecco, sì, esatto. Molto bellini. Forse tutte queste miniaturine faranno lievitare il prezzo un po', forse. Immagino che sì. Adesso noi Va bene. italiani dobbiamo sperare nell'edizione Asterion di questa espansione, forse al play. Può darsi. Ok, va bene. E questo era Kemet e tutte le sue 1000 espansioni. No, era Sifla adesso, Era non era Sigrades e Kemet. tutte le sue 1000 espansioni. Tra l'altro Sigrades e Kemet condividono un'altra cosa, i bellissimi disegni di Coimbra. L'illustratore Sì. Ah, che tra l'altro in Monuments non c'è Coimbra. Tra l'altro, vabbè, per disegnare di edifici può anche evitare. e vabbè, ok, direi che possiamo chiudere qui visto che dai, questo Kemet che si crede ci ha tenuto compagnia per tanti Parleremo di minuti. Kemet in futuro se ci tieni così No, tanto. non mi piace Kemet, è un brutto gioco. Kemet è veramente, Non pensavi. è come Secret Base, è noiosissimo. Praticamente tutti quanti arrivano in uno No, stallo in cui. la differenza di Sikades è che in Sikades base ti devi pianificare 5 ore solo per incontrarti con gli altri, mentre in Kemet devi solo attaccare gli altri di continuo e basta. Sì, esatto. E praticamente Zoko arriva in questo stallo in cui tutti sono a un punto dalla vittoria e tutti cercano di fare questo punto attaccare. È veramente noioso. Cioè, bocciato. Per espansione non l'ho provato, però in base è veramente penso sia uno dei giochi più noiosi che abbia mai giocato. Ma guarda, giusto per così per dire, l'espansione aggiunge un colore in più e quindi ci sono c'è qualche potere in più, anche perché giocando più volte il gioco base l'ho imparato di memoria le strategie. E ne hanno aggiunto qualche potere in più, ma per il resto è sempre quello. Va Ah, una cosa però, ho detto una sciocchezza. Non è Coimbra l'illustratore di Kemet, ero sicuro fosse lui. Vabbè. Ok. Quindi rettifico. Perfetto. Quindi direi che possiamo chiudere la puntata qui anche perché siamo un po' a corto di giochi, non vogliamo rischiare di finirli, vero? Ma Ok. Ok, io sono a corto di giochi, va bene? Non voglio rischiare di finirli. Se ne ok, portiamo 4 a puntata, così assieme. dureremo ancora poco. Vabbè, te ne dirai uno alla volta, io ne darò due alla volta, faremo così. Ah, va bene, faremo così. Non Non c'è problema. dobbiamo dirle in diretta queste cose. Vabbè che non siamo neanche in diretta. Ok. Detto questo, forse possiamo veramente chiudere la puntata qui. Quindi prima dei saluti torniamo alle solite coordinate. Allora, il podcast lo trovate come sempre su Radio Big World tutti i lunedì sera alle 8 e nella pagina dedicata del sito di Radio Big World trovate anche i vecchi episodi se ve li siete persi e la possibilità di commentare. Commentate, fateci sapere se apprezzate, speriamo. Fateci sapere qualcosa, insomma, fatevi vivi, cerchiamo di capire se abbiamo degli ascoltatori o no, o se parliamo da soli. Per il resto, invece, parlando. Adesso non. No, Cosa? niente, non cadiamo nella disperazione. Non Vai pure. sono disperato. E visto che non sono disperato, adesso parliamo della nostra associazione, invece, Area Games. Se siete della zona di Forlì potete venirci a trovare tutti i venerdì sera alle 9 presso il Bar President in Viale Roma, dove ha luogo la serata associativa in cui è possibile giocare a giochi da tavolo fino all'una e mezza, le 2 di notte. Cosa buona e giusta. Mentre per gli eventi in questo momento non abbiamo eventi sicuri in programma. Quando questa puntata andrà in onda saranno stati anche la serata con l'autore Daniele Tascini e l'area demo Mercato Saraceno, che in questo momento in cui registriamo ancora non sono avvenuti, quindi ne parleremo prossimamente, soprattutto dell'incontro con l'autore Daniele Tascini. Magari avremo qualche novità sui suoi prototipi, qualche curiosità sui suoi giochi più conosciuti come Marco Polo e Zolkin. E presto vi informeremo anche sulle nuove aree demo dell'associazione, visto che ci sarà una riunione molto importante di cui discuteremo del futuro di Area Games, che in un anno è diventata una realtà enorme. Bene, detto questo, siamo pronti a salutarvi e a risentirci la prossima settimana. Quindi da Claudio e Pietro di Alla Conquista del Gioco, anche per questa settimana è tutto. Ciao amici! Ciao ciao!